La parola Mishnah è composta dalle stesse lettere in ebraico che compongono la parola Neshama. Neshama è un riferimento all'anima. E i maestri insegnano che lo studio della Mishnah, in particolare in un'occasione di una ricorrenza, è un bene per l'anima, l'anima che si ricorda. In una certa occasione, dopo che era venuto a mancare in una delle ricorrenze dell'Alter Rebbe, cioè del primo maestro Chabad, il successore ha detto, si usa studiare le Mishnayot. Sicuramente papà non ha bisogno delle nostre Mishnayot, già è asceso molto in alto, però sicuramente con la stessa sicurezza possiamo dire che noi abbiamo bisogno di studiare le Mishnayot in sua memoria. E quindi ho pensato di studiare con voi una Mishnah accompagnata da qualche osservazione che fece il Rebbe stesso su questa Mishnah. Nella scelta della Mishnah sono andato su una Mishnah abbastanza nota, che studiamo secondo l'usanza anche nelle settimane estive, tutte le settimane estive, non solamente fino a Shavuot, la Mishnah del trattato di Avot, il trattato delle massime dei padri. E questa settimana, proprio questo Shabbat, si approfondirà lo studio del quarto capitolo del Pirkei Avot. In questo quarto capitolo la Mishnah ci dice la seguente cosa. È la Mishnah 19, in alcune versioni è la Mishnah 20, del quarto capitolo del Pirkei Avot. La Mishnah dice: Shemuel HaKatan Omer. Shemuel il piccolo, la Gemara parla del motivo di questo soprannome, perché il piccolo, si spiega che era una persona estremamente umile. In ogni caso, Shemuel HaKatan Omer, Shemuel il piccolo diceva, Binfol oivcha al tismach, quando cade il tuo nemico non ti rallegrare. Uvikashlo al yageli becha, né quando inciampa gioisca il tuo cuore. Penire Hashem verrà be'enav veheshiv me'alav apo, affinché Hashem non veda e se ne dolga, non ritragga la sua ira da lui. Questa è un'intera Mishnah. È una Mishnah estremamente strana, perché anche se la lezione, ognuno può capire, è molto valida, ma in realtà qui abbiamo citato un maestro della Mishnah, Shemuel HaKatan. Shemuel HaKatan non fa altro che citare un versetto già scritto nel libro dei Proverbi. Quindi cosa c'è di Mishnah qui? Non ha aggiunto niente di proprio. Leggiamo la prossima Mishnah. Elisha ben Avuya Omer. Disse Elisha ben Avuya: Alomed yeled le mahu dome. Chi studia la Torah da bambino, da fanciullo, a che cosa può essere paragonato? L'idio che tu va al niar hadash. Può essere paragonato all'inchiostro scritto su carta nuova, pulita. Vehalomed zaken, è colui che impara da vecchio, le mahu dome, a che cosa può essere invece paragonato? L'idio che tu va al niar mahuk, a dell'inchiostro scritto su carta raschiata, cioè cancellato e poi riscritto sopra. La Mishnah prosegue. Rabbi Yose Bar Yehuda, un altro maestro di questo nome, Ish Kefar Bavli, che veniva da un luogo che un villaggio babilonese, diceva: Halomed min haketanim, colui che impara la Torah dai piccoli, quindi un grande che impara dal piccolo. Le mahu dome, a che cosa viene paragonato? Le ochel anavim kehot veshote yain migito. È simile a uno che mangia uva acerba e beve vino d'altino, direttamente dal momento della spremitura dell'uva. Ve'alomed min azkenim, invece chi impara dagli anziani, le mahu dome, a che cosa è paragonato? Le ochel anavim beshulot veshote yain yashan, a uno che mangia uva matura, quindi dolce e così via, e beve vino vecchio. Prosegue la Mishnah nell'ultima battuta e dice: Rabbi Meir Omer, al tistakel bakankan e la bemashe yeshbo. Non guardare al fiasco, ma al suo contenuto. Yesh kankan chadash male yashan. Ci può essere un fiasco nuovo pieno di vino vecchio, ve'yashan she'afilu chadash en bo. E ci può essere uno vecchio che sia privo perfino di vino nuovo. Quindi in qualche maniera in quest'ultima battuta Rabbi Meir vuole discutere con ciò che è stato detto appena prima, e cioè che è meglio imparare dagli anziani che dai giovani. Rabbi Meir dice: non guardare il fiasco, ma guarda il contenuto. Quindi ci può essere un giovane che è pieno di contenuto valido, al tempo stesso ci potrebbe essere un anziano che è privo di contenuto valido. Queste sono le citazioni delle due Mishnayot. Ora, nell'approfondire solo un pochino brevemente e cercare di capire cosa sta dicendo inizialmente Shemuel il piccolo, Shemuel HaKatan, che viene citato nella Mishnah ma non dice altro di citare, non fa altro che citare una cosa già scritta in altre fonti senza aggiungere nulla. Il Rebbe dice che questa prima Mishnah citata in qualche maniera vuole essere un'introduzione alla seconda. Shemuel parla di un nemico. Allora innanzitutto bisogna definire il nemico nel senso in cui è inteso il nemico nell'ambito della Torah. E cioè non stiamo parlando di un eventuale antisemita, persecutore, nemico su campo di battaglia. Non di questo stiamo parlando. Stiamo nell'ambito della Torah, stiamo parlando di qualcuno che per la Torah è un nemico, e cioè un ebreo che è contro la Torah. Come si definisce contro la Torah? Che sa quello che deve fare e non lo fa. Ma in una maniera molto grave, come vedremo. Di questo nemico sta parlando Shemuel. E ci dice: non gioire per la caduta anche di un nemico di questo genere. Vediamo un po' perché lui deve parlare di nemici. Ebbene, come ho detto, questo introduce il brano successivo che è stato citato, dove è stato citato un maestro per nome, che normalmente non viene citato per nome. E questo maestro è Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya, spesso nelle fonti, anche quando è citato, perché comunque parliamo di una delle più grandi autorità sulla Halakha, sulla Torah del suo tempo, ma anche qualora dovesse essere citato, è citato in maniera occulta, usando il termine acher, quell'altro. In altre parole, è stato escluso. Ma non è tanto che è stato escluso quanto si è escluso. E cioè ha lasciato il mondo della Torah, ha lasciato il mondo delle mitzvot, ma non solamente per comodità, sembrerebbe, ma proprio per ideologia. La Gemara racconta nel trattato di Chagigah che anche negli ultimi momenti in cui ancora si trovava nelle case di studio di Torah, nel Bet HaMidrash, dalle tasche delle sue vesti cadevano ogni tanto delle pergamene, dei libri che avevano fonti molto, diciamo così, strane, cose eretiche, cose proprio al di fuori di quello che uno si aspetterebbe all'interno del Bet HaMidrash. Elisha ben Avuya era diventato un ebreo che odiava gli ebrei. Alcune fonti parlano addirittura di Elisha ben Avuya come uno che ha portato informazioni ai romani, che le quali informazioni hanno fatto sì che ci siano dei pericoli per gli altri ebrei. Quindi parliamo di qualcosa di molto molto grave. Elisha ben Avuya qui viene citato però per nome. E l'introduzione alla Mishnah, all'insegnamento di Elisha ben Avuya, qual è? Non gioire per la caduta del tuo nemico. Come si spiega questa cosa? Allora il Rebbe fa tutto un approfondimento, di cui cito due righe, e dice: l'autore del Tanya, quando parla della Ahavat Israel, quando parla del obbligo che abbiamo di amare in maniera incondizionata ognuno, ogni altro ebreo, quindi senza entrare nel suo comportamento per giudicare, solo amare in maniera incondizionata. Comunque questa affermazione stessa viene condizionata, perché comunque le fonti parlano, come abbiamo visto anche qui prima, di situazioni molto gravi dove è sì giustificato un atteggiamento diverso dall'amore verso il prossimo. E allora come si conciliano queste due cose? Nel Tanya l'Alter Rebbe dice che anche laddove si parla di un atteggiamento di odio nei confronti di un nemico in questo senso di cui stiamo parlando qui, l'amore non viene a meno. L'animo umano è forte abbastanza per contenere in sé atteggiamenti non solamente diversi, ma anche contraddittori verso una persona. Per un suo comportamento si richiama nel proprio cuore un certo atteggiamento, un certo sentimento, e per un altro suo comportamento si richiama nel proprio cuore un altro sentimento. Amalo per l'anima che c'è dentro di lui, che comunque al suo interno rimane pura, e odia il suo comportamento. Non deve essere per forza una contraddizione. E quindi la Mishnah dice: non gioire nella caduta del tuo anche del tuo nemico. E il Rebbe aggiunge un ulteriore approfondimento dicendo: non è solamente perché c'è qualcosa di valido in quella persona ancora, nonostante tutto, ma è anche perché tu sei in parte responsabile per quel suo comportamento. In altre parole, è molto facile vedere un fenomeno negativo, non trovare una colpa. Siamo abituati a sempre a trovare colpe, a cercare colpe, non vedere una colpa in sé, e quindi ci si scarica dalla responsabilità. Questo qui, come si dice a Roma, un sacco rivoltato, scusate il termine, e noi non c'entriamo più niente con questo. Questo in realtà è un modo di togliersi la responsabilità, e questo la Mishnah ci sta dicendo non si può fare. Qualora incontri una persona che si può definire per la Torah un nemico, devi guardare dentro di te, dentro te stesso, e dire: cosa avrei potuto fare io e cosa magari potrei ancora fare perché questo non sia più un nemico. Nel momento in cui gioisci, è come se lo escludi totalmente dalla collettività ebraica. E questa è una cosa che non ci possiamo permettere. Non gioire perché è anche una tua caduta, la sua caduta, in altre parole. Non è caduto solo lui. Se vedi l'altro che cade, significa che stai cadendo anche tu. Allora cosa gioisci? Non c'è nulla da gioire, c'è da piangere. E quel pianto potrebbe far cambiare qualcosa anche in quell'altra persona e non solamente in te. Dunque introduce Shemuel HaKatan con un versetto, ma con un insegnamento che vuole introdurre appunto un insegnamento di una persona di quel genere. Ora, in fin dei conti, cosa si può fare per una persona di quel genere? Beh, vediamo qual è l'insegnamento che quella persona, Elisha ben Avuya, diede nella Mishnah appena citata. Cosa disse? parlò dell'importanza di studiare Torah da piccoli. Se poi andiamo a cercare nelle fonti, in particolare nel Talmud, che raccontano la storia di Elisha ben Avuya, vediamo che effettivamente questa è la storia della sua vita. Elisha ben Avuya, il padre, aveva riconosciuto, quando lui era piccolo, aveva riconosciuto in lui una particolare capacità mentale e ha detto: lo dedico allo studio della Torah. Non era una cosa scontata, non c'era la scuola d'obbligo, ma ha deciso di togliere il figlio magari dal lavoro della famiglia o quello che era e di dedicarlo, di farlo dedicare allo studio. E così fece. Elisha ben Avuya effettivamente crebbe moltissimo, come abbiamo visto nello studio della Torah, già da molto molto giovane, da piccolo. E poi, com'è che questa cosa alla fine lo aiutò? La storia è molto interessante, perché la stessa Mishnah qui cita alla fine Rabbi Meir. Rabbi Meir, che è proprio quello che dice: non guardare l'età, non guardare il fiasco, guarda il contenuto. Come si può non vedere che Rabbi Meir sta parlando di Elisha ben Avuya? Ma non è a caso che è Rabbi Meir che parla di questo, perché il maggiore allievo di Elisha ben Avuya era Rabbi Meir. E non solo ha imparato da Elisha ben Avuya nei momenti dello splendore di questa persona nella Torah, ma ha continuato a seguirlo anche quando aveva ormai rinnegato il proprio popolo. Ed Elisha ben Avuya era sempre una fonte di conoscenza e impartiva sempre delle lezioni al suo allievo Rabbi Meir, che forse era l'unico che ancora lo seguiva. E Rabbi Meir apprendeva. La gente gli ha chiesto: Rabbi Meir, come ti permetti di fare una cosa del genere? La Gemara dice: Rabbi Meir ha mangiato l'interno del frutto e ha scartato la buccia. Stessa cosa che dice lui qui nella Mishnah riguardo il fiasco e il contenuto del fiasco. Rimon Mazzà, c'è scritto, fa l'esempio di un melograno. Ha trovato un melograno, ha scartato la buccia, ha ritenuto i semi. Questo ha potuto fare Rabbi Meir, non è da tutti. Nella maniera più assoluta si condiziona questa cosa. Non è da tutti, non è quasi da nessuno. È per una persona come Rabbi Meir, ma Rabbi Meir riuscì a farlo. E la Gemara racconta una storia molto interessante quanto tragica e bizzarra. Un giorno Rabbi Meir seguiva a piedi Acher, questa figura qui, Elisha ben Avuya, che cavalcava, che andava a cavallo, e Rabbi Meir lo seguiva a piedi. Era Shabbat. È vietato andare a cavallo di Shabbat. Elisha ben Avuya non gli interessava questo divieto, ma mentre andava a cavallo di Shabbat, Rabbi Meir lo accompagnava a piedi e sentiva da lui parole di Torah. In un certo punto Elisha ben Avuya dice a Rabbi Meir: torna indietro. Come torno indietro? Perché? Perché ho contato i passi del mio cavallo e mi sono reso conto che siamo arrivati al punto limite dal quale non si può più uscire di Shabbat. Esiste un divieto di Shabbat poco conosciuto forse, che si chiama Isur Tchumim, e cioè all'esterno di un luogo abitato, all'interno di una città, si può camminare quanto si vuole. Al di fuori del luogo abitato si può camminare di Shabbat solo fino ad un certo punto di distanza. Rabbi Meir si sente dire dal suo maestro, che ha rinnegato l'ebraismo: guarda che dai passi del mio cavallo mi sono reso conto che tu dovresti tornare indietro, perché tu sei un ebreo osservante. Tra l'altro lo sfregio qui è anche nel solo andare a cavallo. Andare a cavallo non era una cosa da tutti, era una cosa da persone di un certo livello. Poi il farlo di Shabbat e tutto questo, tutta questa Tutto questo scenario è molto, molto strano. Rabbi Meir però non perde in quel momento l'arguzia, e nel momento in cui il maestro gli dice torna indietro, il termine in ebraico chazor becha, Rabbi Meir dice tu torna indietro, fai teshuvah. Elisha ben Avuya disse: per me ormai è impossibile fare teshuvah. Addirittura ho sentito una voce celeste che diceva tutti possono fare la teshuvah tranne che te. Tu torna indietro. Ma la Gemara non conclude il racconto qui. La Gemara dice, e concludo, che quando morì questa figura, Elisha ben Avuya, quando stava per morire, disse, magari in un momento di lucidità, scusa, dissero di lui, la Gemara dice, quando morì i maestri dissero di lui, è meglio che non lo giudichino nell'altro mondo, perché non lo potrebbero considerare di non giudicarlo, nel senso rigoroso della parola, perché comunque ha studiato Torah. Tra parentesi, questo ci fa capire l'impatto dello studio della Torah sull'anima della persona e in cielo, diciamo, ciò che si scrive, ci incide in cielo studiando Torah, quanto può essere potente, che addirittura il maestro ha detto probabilmente non lo giudicheranno così terribilmente perché ha studiato Torah. Ma di chi stiamo parlando? Incredibile. Dall'altra parte dice sì, forse non lo giudicheranno così male, ma neanche lo faranno entrare nel Gan Eden, perché per quello che era, diciamo, sarà un po' perso in mezzo tra le due strade. Allora Rabbi Meir disse è meglio che lo giudichino, e cioè è meglio che sconti la sua pena, perché così poi almeno giungerà a un riposo che è frutto di quello che lui ha sì fatto nello studio. Potrà poi accedervi a questa ricompensa se fosse giudicato, se fosse punito. E Rabbi Meir dice, quando io morirò, interverrò in cielo in questo senso e farò fumare la sua tomba, come per dire, farò sì che ci sia un'indicazione che lui viene punito. Il fumo, il fuoco è associato con il purgatorio, con il Geinam. Allora la Gemara dice che quando morì Rabbi Meir, anni dopo, uscì fuori un po' di fumo dalla tomba del suo maestro, Elisha ben Avuya. Ma ancora non finisce lì. Questa è la punizione della sua, diciamo, figura spirituale. Cosa succede successivamente? Un altro maestro successivo, Rabbi Yochanan, dice io quando morirò farò cessare questo fumo. E cioè che si concluda quel periodo lì di dover scontare la pena e vada al proprio riposo eterno, in qualche maniera guadagnato con lo studio della Torah. E la Gemara dice che Rabbi Yochanan, quando morì, cessò questa fumata dalla tomba di Elisha ben Avuya, di Acher, e i maestri dissero di Rabbi Yochanan, neanche il guardiano della porta del Geinam è più forte di te, Rabbi Yochanan. Cioè lui ha portato, diciamo così, a termine la riparazione, il tikkun, la rettifica dell'anima di Elisha ben Avuya. Ebbene, da queste Mishnayot cosa possiamo imparare? Possiamo imparare moltissime cose. Abbiamo imparato innanzitutto cosa significa un nemico secondo la Torah. Un nemico secondo la Torah è qualcuno che si mette contro, volutamente contro la Torah. Un nemico secondo la Torah non è qualcuno, e passatemi di nuovo il termine, che ci ha fregato sul lavoro, o che ci ha inciampato in qualche maniera, o che ci ha risposto male, o che dal quale ci aspettavamo qualcosa e non c'è stata l'aspettativa. Questo per la Torah non si chiama un nemico. Questo non è uno dal quale dovremmo togliere la parola. Questa non è una situazione che si legittima nella Torah, un rompere i rapporti. Ve'ahavta le'reacha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Come avresti voluto che la persona reagisca nei tuoi confronti se fossi stato tu, così reagisci. Questo è il nostro obbligo. Quando parliamo di nemici nella Torah, parliamo di tutt'altra cosa. E questo è un primo insegnamento. Un altro insegnamento, appunto, quanto non abbiamo idea dell'importanza di un momento di studio di Torah, a maggior ragione di più momenti, di che impatto sulla persona, sulla neshama, sull'anima questa cosa può avere. Infine, impariamo che questo impatto e questa incredibile potenza è qualcosa che rimane un proprio patrimonio veramente per sempre. E non limitato come un patrimonio di beni materiali solamente appunto a questo mondo materiale. Sicuramente possiamo dire che tutte queste tre lezioni abbiamo avuto grandi maestri, lo abbiamo imparato dalla Mishnah, ma sicuramente nel Rebbe abbiamo visto, tra le molte, moltissime cose, anche in maniera molto incisiva, questi tre punti qui. E cioè, non esisteva un rancore nei confronti di un'altra persona per motivi che non sono giustificabili per la Torah, come abbiamo visto. Non esisteva un momento libero. Il Rebbe, con tutto quello che ha fatto nel mondo, in realtà la maggior parte della sua giornata era preso semplicemente con lo studio. E allora noi che qui ricordiamo e cerchiamo di rientrare in questa occasione, possiamo sicuramente trarre qualcosa da queste lezioni e magari crescere, e che sia un merito per noi essere allievi in questa occasione, in tante occasioni, di quegli insegnamenti del Rebbe. A questo punto, ho l'onore di invitare qui Rav Carucci Bechavod. Sì, funziona. Allora,